riposo a casa con domani lunedì. Si trabacca, quindi oggi ce l'abbiamo presa a riposo. Ma trabacca, è stato domani, questo non va a mettere pioggia, lo sai, previsione. Fino a mercoledì pioggia. Me l'ha rotto le palle. Entri martedì, no, ti va bene. Domani vorrei entrare io, martedì, poi vediamo se ci sono spostamenti, se vado da qualche altra parte. Questa settimana sono in giro, quindi non so dove devo spostarmi. Comunque, se piove, se la bide è chiusa, di là. Ma cosa non ti manda a provare? Credo proprio. Ma non conosci la mica prima. Ha di vita pari a Lovabo, si è fatto le belle caschette, quanto pare un'italiana dei ricchi di Rungobbo. A voglio il sindaco. Ah, ma non è quasi precisa alla vigliola di film di cose, ma tutti no? Insomma, sembra che le abbia messo la parrucchiera una lenza in testa e gliel'abbia tagliati con la forbice con la lenza segnata. Un gabbo guardato ha fatto. Carità. Riprendi qualche. Beh, ui. E allora vedi, aiuto, riprendi benissimo. Mi, ora che non ne ha più raffreddore. Ma sì. Servirà sempre, io non ti preoccupare. Ma ce l'ha? Non lo sento. Non lo so. Che è fatto? Di nuovo? Oh, benissimo, guarda che c'ho le supporte. Buonasera a tutti. Dove vuoi? E tu già vai, cazzo, chi dovete rompere il microfono o con una mazzetta? Registrato. Sandro. Ok. Registrato il blecco. Buonasera a tutti, cosa c'è mio? Adesso non si sente niente, prima sentivo un colpo di mazzetta. Avanti Roberto, buonasera. Attenuati, sono il vecchio pace, se non riesco a attenuarti questo va in saturazione all'apparecchio, esatto, cosa dice, guarda, dimmi un po', livello del microfono com'è qua? Una bomba, va, non mi attenuare, che cambio radio, che metto il baracchino anch'io, dai, attacco la faglietta che mi 23 col carne più 3 da tavolo, così non c'è bisogno di attenuarmi, roba, dai, siamo troppo vicini. così per la supporta per il microfono. Ok, Roberto, ti sento abbastanza bene, cioè bene, leggermente compresso, tutto lì, comunque comprensibilissimo. Guarda, sto abbassando un pochettino, guarda adesso l'ho abbassato, guarda se va meglio così. Ma è forse il mic che c'ha l'effetto di amplificazione, forse per quello. Adesso non so, magari se ti trovi in una camera un po' vuota e ti fa il rimbombo anche la camera. Non lo so, diciamo la camera non è vuota, c'è qualcosa, naturalmente non sono né tappeti né niente, eccetera, che assorbono le riflessioni, perché se no sono l'uso questa roba qua, magari anche il microfono, ne perde qualcosa quando non si usano, qualcosina male in perde. No, dico, se mi ascolti di farlo troppo forte o troppo basso, quello ti volevo chiedere, poi la comprensibilità ne parliamo dopo. No, va benissimo. La modulazione va più che bene, diciamo, non ho niente da dirmi. Tutto lì, forse è il mic che ha questo effetto di amplificazione, tutto lì. Vediamo un pochettino, Claudio, ma quando sei sceso a Porrotore ti hai fatto rilasciare il permesso? Sì, ieri, sì, c'avevo il permesso, anche i buoni c'avevo. KK, io sto andando col baracchino, mi ascolti bene, Robè? Sì, ti ho dovuto attenuare di nuovo, le referenze a metà ho dovuto chiudere perché sono stato da questo baracchino, c'ha dei problemi di coso. Quando sono troppo forti i segnali non ha dei filtri in radiofrequenza, poi quando sono segnali talmente forti devo richiuderti le referenze. C'ho 4 watt, cosa devi chiudere? C'ho ancora KB2030, non è più 3 da tavolo. Cosa devi chiudere? Evidentemente perché siamo molto vicini. Non fa. Vieni, ti arrivo a te, vi arrivo a voi, sì, col barracchino. Eia, 9 e 5, radio 5. Bella la radio, va bene? Sì, va bene, per me va bene quella radio. Anche per te, Sandro, va bene, tale più 3, sì. Sì, va benissimo. Va benissimo, sempre, diciamo, sempre al solito. Niente da dire. Bene, sono contento che voi siete contenti. Avanti, cioè, riprendi, vediamo se ti ascolto col barracchino. Ma ascolti bene, io ti ascolto bene, là. E tu mi ascolti a me. Sì, alla grande, Santiago quasi 9, radio 5 perfetta, non c'è problema. Ottimo per la truppa, avanti Antonio, riprendi. Sono positivo, anche nella mia stazione, ottima radio, ottimo tutto, anche Roberto già va bene, come Sandro, come Benito, e Giuseppe un po' bassino comunque nella mia postazione, ma del resto tutto roger, dai. Vabbè, ci ascoltiamo tutti, dai, non c'è problema. Beh, il problema dell'altro giorno, disturbi e cose varie, ce ne sono questi giorni. Io questi giorni, ieri vabbè non c'ero, ieri sera non avevo acceso il radio, stamattina l'ho accesa, però non ne avevo disturbi, nessun disturbo, c'era un leggero fruscio ma causato dalla pioggia, ma quel ronzio dell'altro giorno non c'era neanche qua sul baracchino, e questo non c'ha proprio niente, c'era lo squelcio, il volume e basta. Niente da fare. No, ma vabbè, adesso il baracchino già li posso usare perché sono lontano. Poi noi trasmettiamo tutti in un canale, quindi ogni tanto il baracchino già si può usare. Quando eri via Pasqua non si poteva tratta nuda di baracchini di questo livello, perché con tutti questi baracchini modificati invece anche se addono arrivate un po' di casino. Ok, avanti Benito. E ciao. Che guarda il micro. Come è che la guardo con questo tempo? Salvato tu sì. E salvato non ha problemi, travagliamo. Facciamo tutti così. Non ha problemi. sono qua, stavo ascoltando. Ma arriva abbastanza forte lo spagnolo. Già arriva lo spagnolo. Poi figurati, se era spagnolo era anche meglio, spagnoletta. Quella non ci manca mai. A quest'ora, cioè, sotto le coperte è bello. Ah, dice dalla Polonia. C'è questa autostrada. Cos'è, ma che? Questa è autostrada a Polonia. Ma nel letto sai che si sta molto meglio in due che in uno. Aspetta, chissà che si tratta a Bakushimi, cosa hai compreso? Grazie, sempre tu sei. Vero tu? Eia. Ma che mania con frequenza che ha. Davvero? Adesso non sono entrato nuovamente Falcone, due no? Qual è Falcone? Falcone, che già avete capito, il frutto. Oh. Falcone, quello che stava sempre guardando dal balcone, non si faceva mai catti degli altri. E scappa, direi di insieme con le calze a rete, facevo il visto delle cose delle calze, e lui si saltava. Già ho capito. Ui. Quindi bene, tutto bene adesso, sì. Il cavetto gliel'hai fatto, tutto. Allora domani io vedo peggio, devi mettere il giallo verde. Vado a prendere il giallo verde. E faccio tutte le masse nuove. Perché voglio eliminare questo rumore che c'è da qualche parte. Non so che cosa sia. Ma c'è un rumore che mi entra dentro qua. È un rumore normalissimo, un ronzio, pare vi sia una motozappa. Vabbè. E beh, Luca. Qua siamo. Oh. Mitra appoggiato sulla finestra, trovati gli altri. Buonasera comunque. Buonasera a tutti. Ho controllato ancora. Perché ho mangiato un bel tardi, ho mangiato. Io sento a Luca. Falcone, non c'è poi. Pallone. Quindi Roby. Roberto si è spostato un secondo nel telefono. Ah, cappa. Oh, vedi. Ma l'alimentatore di quello strumento dov'è? L'alimentatore di quello strumento io non l'ho mai avuto, eh. Quindi non illuminavi lo strumento tu? No, non era attaccato io. No, perché senza alimentazione non funziona, capito? Quindi noi semplicemente va detto a farlo funzionare, sinceramente parlando. C'ha due lucette rosse dove c'è l'affare dei watt. Se non è alimentato l'induttore dentro non funziona, capito? I variabili non funzionano, non camminano. Fai isso. Infatti gli ho attaccato quello del mio, però è dell'MFG il mio, non è della Daiwa. Quindi non ci ho preso, metteva a vedere stazionari e dopo non si muove nulla. Se tu non lo alimenti non si muove quello strumento. No, ma io ho visto che qua tanto qua non andava qualcosa, non me ne facevo nulla, e sinceramente non l'ho mai attaccato, non ne facevo niente qua. Ha preso qualche colpo perché la levetta è storta, capito? Adesso l'ho drizzata, scende bene, gli ho fatto regolazione dello strumento, in ogni caso con l'alimentato, quindi ci vuole un alimentatore 220 12 220 12, che abbia il centrale positivo come quello che c'ho io là. Adesso ne stavo cercando uno qua in tutti quelli che ho, però sono tutti a 6 volts e 9 volts. Adesso vediamo se ne trovo uno a 12, glielo attacchiamo, capito? Così se ne dà e si dà con l'alimentatore, intanto te lo chiedo, perciò. Ma coglioni, oh. Guarda, girando se mi trovi quello delle Leghe in 5. Delle Leghe in 5? Basta venire a prendertelo. Era giusto per vedere come andava quella stazione lì, capito? Ma quello a quattro attacchi. A quattro attacchi sarebbe? No, c'ha quella specie spinottina strana, due attacchi. Due attacchi. Ma quello che c'entra dentro, no, lui è quello a quattro. No, quello lì è quello che c'entra dentro. Poi c'ha l'attacco normale del barracchino normale. Non lo so se allora vabbè, quando ne sali ricordati, lo controlliamo. E al limite ci salgo l'apparato, è quello in americano. Io non so se ce l'ho anch'io, io ce l'ho sei asso americano e c'è lo stesso spinotto, capito? Ma anche nel Zodiac, quello base 50-24, c'è l'attacco così come il Lightning, mentre tutti gli altri sono compreso anche questo. Questa KB23 ce l'ha 4 lo stesso, capito? Ma c'è anche quello per la macchina, aveva fatto un legno, capito? E l'ho dato a Mario. No, ho capito, Già va bene. Chi vuole riprendere? Luca vuole riprendere, se no vediamo se è rientrato Roberto. E io sono rientrato, dove? Un attimo. Sì. Claudio, un particolare che magari ti è già successo, magari o è in normale amministrazione. Allora mi erano salite le stazionarie, tutto quanto, vabbè, sono salito di nuovo su, ho tirato di nuovo lo filo e compagnia bella. Controllo il PL e ho trovato il PL completamente, diciamo, bagnato, diciamo, delle gocce di acqua. Magari è condensa? Beh, può essere condensa, può essere acqua vera, che magari cola dal piantone dei radiali. E la turbo è così, eh. La turbo non è molto rispetto all'altra, perché c'è il piatto, hai visto il piatto dove poi tu entri i radiali uno per uno li stringi. Quel piatto, se non è siliconato, poi una volta che tu hai stretto tutto, fa da appoggio dell'acqua e quindi ti cola sopra il PL, mentre invece voleva siliconato, messo leggermente una pattina di silicone giusto per non far scendere l'acqua nei fori delle viti. E vabbè, è stata piazzata in fretta con l'antenna, 448, però ci sono da fare tutte queste cosettine. Io l'avevo fatta radiale per radiale, figurati. Dove sono i cappuccetti, messo il silicone, entrato dentro il cappuccetto, perché essendo in alluminio l'acqua rimane attaccata, capito? Invece sulla fibra l'acqua scorre, non rimane attaccata. No. Un attimo. No, io intendevo, allora, qui a poco Torres, nell'assidio l'antenna, non era manco, va. Il PL che aggancia lì all'apparato dietro. Il PL che aggancia l'apparato dietro. Cioè ti sta entrando l'acqua dentro il baracchino? Non è che sta entrando l'acqua, Claudio, cioè è un dubbio che mi è venuto. Non penso che, cazzo, con 20 metri di cavo che parte da qui dall'apparato e arriva sull'antenna, mi coli l'acqua dentro un cavo, dentro la calza. Io ti parlo del PL che del cavo di discesa, dal PL che aggancia l'apparato. Lo porto al PL per vedere un attimino, magari per risaldarlo, diciamo così via, mi sono accorto che sono sceso qualche goccia d'acqua. Cazzo, te lo sto dicendo, non è un bel segno quello. Vuol dire che nel cavo c'è qualche ingresso da qualche parte, qualche foro, qualche spaccatura dove si porta dentro l'acqua. E uno che mi dice di te. Cioè se a me, io adesso stacco il PL e trovo un PL bagnato, cosa devo pensare? Cioè io sono dentro casa, l'antenna è fuori, cosa devo pensare io? Che può essere connessa? Perché già c'è il baracchino in cucina. Scusami. non esiste. No, lì è da ripetere subito immediatamente, ma subito però. Perché può darsi che il cavo che tu hai montato, siccome l'hai montato in un periodo caldo, ci sia qualche spaccatura nel cavo, qualcosa che tu non hai visto, o qualche anche dove si è dato il PL sopra, che non sia molto pieno di stagno. Quindi te entra l'acqua da lì e te la porta giù. È già successo ad altra gente. È da rivedere quel cavo, Alessandro. In particolare, ho detto a chiedere a Claudio a vedere un attimino, diciamo, è sorto il dubbio anche a me. No, come stazionarie adesso ne ho una e tre, cioè le ho abbastanza bene, in effetti lo stilo l'ho portato su di 2 cm, prima era 43, adesso è 45, 45 e mezzo quasi. E io un e tre, diciamo, stazionale tranquillo, però diciamo questo particolare che non mi veniva bene, diciamo, è strano. E da rivedere subito, immediatamente, appena fa tempo buono, bisogna rivedere, riguarda tutto, e se non si cambia direttamente il cavo, caro mio, perché sicuramente in quel cavo c'è qualche foro, qualcosa che ti sta portando l'acqua dentro. Capito? E porta oggi, porta domani, poi alla fine il cavo si prende che già non si vive più. E a parte che puoi fare anche l'anno alla radio, perché basta una scarica elettrostatica, essendo bagnato il cavo all'interno, perché la gomma deve fare l'isolatore, quindi se l'acqua è già dentro, il cavo è già umido, può succedere qualche scarica elettrostatica che possa bruciare la radio. Quindi bisogna non trascurarlo e farlo subito, immediatamente, appena c'è tempo buono. Riprendi Antonio un attimino che mi stacco, è arrivata mia figlia al lavoro. K. È così. Beh, da rivedere, adesso si vede, sono cose che si possono fare, però vogliamo fare il più presto possibile, perché se no causa cose molto più gravi. Però, guardate. Ma che cavo stai utilizzando, per curiosità, quanti metri hai di linea? Allora, il cavo è un RG58, perché l'ho fatto passare, diciamo, io nel palazzo risulto a primo piano, quindi dal tetto un palazzo di tre piani, l'ho fatto passare, diciamo, nella colonna principale del palazzo, sono entrato dentro casa e quindi nel cavidotto, diciamo, del palazzo l'RG8 non mi ci passava, quindi sto utilizzando l'RG58, capito? E avrò circa 20 metri di cavo. Ma c'è un'altra opportunità per farlo passare il coso, il cavo, metterlo proprio più grosso, perché è un numero di problemi. Hai te, lo spagnolo che è fatticherriato lo spagnolo. No, magari avessi la possibilità di passare il cavo grosso, perché se dove lo faccio passare, non è che lo faccio passare in facciata, diciamo, così via, insomma, è l'unica possibilità era quella lì. Ho visto adesso ci sono dei cavi superiori all'RG58, paragonabili all'RG213, all'H100, che sono di spessore intermedio, diciamo, un po' più grossi del 58 e un po' più sottili della cosa, sono ottimi cavi, nuovi di nuova generazione, li ho visti su internet. Sì, no, ho visto anche io su internet, quindi questi cavi, diciamo, particolari, diciamo, e così via. No, diciamo, mi sono trovato così, l'altro giorno, mentre in passeggio, stazionario, infatti tolgo il PL, l'ho appoggiato così, ho visto queste gocce d'acqua, insomma, strano, che sia condensa, ma condensa dovuta a che cosa? Cioè mi ha spiazzato un attimino, no, adesso stazionario mi ho addirittura in modulazione, si abbassano le stazionarie, non lo so se è un segno positivo o un segno negativo. Ah, dimmi tu dove c'hai, una stanza esterna dove c'è umido, per dire, o una stanza, diciamo, dentro un appartamento dove è chiuso, ci sono solo sifoni, cioè che tipo di stanza moduli tu? No, diciamo che è una stanza normale dove c'è sono una scrivania dove c'ho un computer, dove c'ho tutto, diciamo, disponibile, tutto quanto, diciamo. Non c'è neanche discorso di rilevare se io vicino a una trova di cottura tipo cucina e cose del genere, che magari si accumula dell'umidità, della condensa, quindi è una cosa un po' strana, più che dal carbone per poter entrare. No, a prescindere da quello, no, cioè l'unico fattore potrebbe essere, come ha detto Claudio, che non sia il cavo magari che abbi qualche filtratura, qualche cosa, e che passi l'acqua, ma siccome il cavo, cioè, se andiamo a ragionare un attimino, il cavo è talmente compresso con la calza, diciamo, e con la sua protezione, che passare l'acqua mi sembra un po' dubbioso, però sai com'è, l'acqua fatto niente filtra, quindi i dubbi sono tanti. Se c'è l'acqua da qualche parte passa, per cui non c'è voglia dubbio, da qualche parte è entrata. Vabbè, adesso vediamo, quanto prima vedo un attimino di cambiarlo sto cavo, adesso ve lo faccio un giro un po' su internet, vediamo un po' cosa si offre e così via, capito? Perché non vorrei che succedesse qualcosa all'apparato e mettesse in fumo l'apparato tutto lì. Vabbè, che per abitudine ogni volta che finisco di modulare il cavo che arrivo da terra lo tolgo sempre, quindi. Va bene, ok, facciamo per prendere anche gli altri un pochettino, allora riproviamo, Raffa anche a te per fargli dare. Positiva, ma guarda, suonato il campanello, un attimo di bianco, lo riprendo subito. Sappa, ma c'è anche Luca, ho sentito Luca, qualcuno chiamando Luca ci sei? Qui c'è Sandro, Claudio, Antonio, Falchetto, io, poi chi sono gli altri? Benito, e poi chi c'era, qualche altro? Giuseppe. Ah, giusto, Giuseppe, avanti tu che c'è un po' di cose da un po'. Ma stavo ascoltando la questione, no? Ma no, vi prendete tranquilli voi, fate il vostro discorso. Rilancio Benito, là. No, ci sei. Ci sei Benito, avanti. Giuseppe, come ascolti tu dalle tue parti con questo canna più 3? È un barattino vecchia generazione. È abbastanza bene, vabbè. La radio è buona, il segnale è buono e tutto quanto. Ah, ok, tu hai un po' bassino di cosa ti ascolto? Di come si chiama? Di radio, non di segnale. Radio, vabbè, io ho piazzato l'antenna che avevo quello della macchina con un tubo e adesso uso quello, poi in seguito piazzerò anch'io l'antenna come Dio comanda, capito? No, non parlo di segnale, se quasi 9:10 dalle mie parti, almeno questo lo Smith di questa macchina, no, parlo di radio un po' bassino rispetto agli altri, di livello di radio parlo. Radio basso, beh. Rispetto agli altri sei più basso, è chiaro, 5, però ti sento più basso di radio rispetto a tutti gli altri. Vabbè, perché ho detto, dopo aver piazzato l'antenna, dai, diciamo che non mi viene bene proprio a piazzare la cina in fondo sul tetto, capito? Dunque è quello, il cavo è sempre quello normale, è quello lì. Adesso vediamo cosa, vediamo un po' cosa fare. Ok, piano piano, dai, tutte le cose si fanno piano piano, e con intelligenza. Voilà. C'era tu, io tu, poi c'è Claudio, Falchetto, poi c'è Benito, riprendete, Claudio riprendi, dai, se ti sei. E io, no, già sono entrato, sono qua, stavo parlando con mia figlia. E lì, vabbè, è capitato, non è che non è mai capitato, è un... L'acqua corre, Sandro, non c'entra niente, ne ha fatto tanta, quindi non può essere perché altre soluzioni non ce n'è, può essere, a meno che dove hai la radio tu non ci sia umidità, ma non credo proprio. Ci mancherebbe altro, però in questi succedere che dalla partenza del cavo, quindi dall'antenna, ci sia qualche sbavatura sul cavo, quindi qualche forettino, qualcosa, anche dal PL stesso, noi facciamo i PL, no? Che innestiamo dentro la carta, là dietro, poi io sono abituato a farlo giusto a misura, proprio la gomma, in modo che vada ad entrare giusta, a toccare dentro, proprio a stringere, e poi le metto sempre un pezzettino di vulcanizzante e basta, senza neanche un altro isolante, proprio per farlo stringere bene, per essere aderente, altrimenti quelli esterni uso la plastica, quella che chiude il PL. Una volta che è soldato c'è una plastichetta che tu la scaldi, lei si scioglie, aderisce, vulcanizza praticamente il cavo col PL, perlomeno quelli esterni, io faccio sempre così, quindi può essere anche che l'acqua si entrava lì e arriva tranquillo, arriva al PL. Lo dico per esperienza, perché l'acqua non c'è niente che la ferma, basta anche un forettino, un buco che lei cammina piano piano e ti arriva a fare 20 metri, non ci vuole niente, assolutamente fattibile la cosa, Sandro. Quindi io avrei cambiato immediatamente il cavo, rifatto il PL di su e vulcanizzato con il nastro aderente, vulcanizzato, rimesso tutto a posto e poi controllare ogni tanto se è tutto ok. È ok. È ok, dai. E vabbè, adesso vedo un po' come si stabilizza, un po' tempo vedo un po'. Ma umidità dentro casa 0 di 0, addirittura c'ho l'umidificatore che se ne va in automatico, quindi figurati se c'ho umidità dentro casa 0 di 0 su quel fattore lì, non lo so. Sono rimasto un attimino così, ho detto, ma è strano, va bene, per ogni dubbio adesso come si stabilizza il tempo, cambiamo il cavo, così tagliamo la testa al collo e ci prendiamo sicuro. Non sono quelle 20 euro di spesa che ci rovinano, però ti consiglio di vederlo subito, perché può essere poi un problema avanti, soprattutto con tutto il periodo invernale, gocciola oggi, gocciola domani, è pericoloso perché l'ingresso della radio è a massa e quindi è pericoloso, deve essere sempre bello asciutto e sempre bello pulito. Ok, avanti a chi tocca. Benito, non riprende, Benito. Ehi, sono rientrato perché sono andato a cagare a casa, se non so se non avete chiamato prima. Abbiamo capito, sei andato a casa. Ehi, a casa, un attimo, mi hanno chiamato e sono rientrato adesso. Va bene, avanti allora, Antonio Falchetto, cambio. Ma cosa avete fatto? Cosa abbiamo fatto ieri? Perso 3-2, guarda. Una sfiga. Ehi, ma cazzo roba, ma che avete già messo le macchie? Sono mezzo scemi. Non era da buttare fuori Marco, Marco Cosciu. Abbiamo giocato in 10 tutto il secondo tempo. Siamo passati in vantaggio noi, poi l'ho pareggiato, poi di nuovo noi, e poi sul pareggio, sul 2-2, siamo rimasti in 10 e abbiamo preso il terzo gol in contropiede. Una bella squadretta anche il TC, una bella squadretta Roberto. Comunque, siamo terzi, il campionato c'è lungo, però i arbitri sono vedo. Non c'era da buttarlo fuori, non era l'ultimo uomo, perché c'erano tre, c'era altra gente che era in azione, quindi soprattutto sulla fascia a destra, e poi c'era il difensore in copertura, perciò non era il caso di buttarlo fuori. Vabbè, pazienza. Adesso ne ho due, uno non ha giocato oggi. Aspetta che abbasso il VHF. Adesso ne ho uno che questa settimana che l'hanno espulso, uno ne avevo la settimana scorsa che non ha giocato oggi, adesso che pensavo di andare a Chiesi al completo, invece mi mancano sempre due persone. Per guardare se così qua. Ehi. Per lui la classifica nella scuola delle salvette, c'è anche quello di Chiesi, un dito Tizi, amici, noi siamo amici, una squadra che si chiama Amici dello Sport. Eglia c'è una squadra buona, più forte è l'Ardara. L'Ardara è prima, è più forte, vabbè, sono molto più giovani rispetto a noi, comunque. Va bene, dai, no, abbiamo iniziato il campionato, lo finiamo, vada come vada, però infatti adesso io devo andare in federazione martedì, perché ne ho tesserato altre due. E intanto il Negretto ha segnato ieri, ha fatto un gol, centravanti, si chiama Joe Samamed, un marocchino, è bravo, c'ha 21 anni, ma bravo veramente, ha fatto un gol allucinante. E ho subito per vedere i nomi, la cosa di Roberto, anche noi abbiamo un paio di marocchini, e un altro, cos'è, senegalese, e poi vabbè, i piccolini li avevamo anche di altre nazioni. Io avevo un occhio, questo è senegalese, ma te, però è bravo, c'è una residenza qua, abita un sacco di anni, anche studiato qua, parla bene l'italiano, non è venditore di niente, lavora a Predaniere in una fabbrica lì vicino a Cesaraccio, veniva sempre lì quando ero via Pascoli e l'abbiamo ingaggiato. No, adesso martedì varone, devo fare altri due tesseramenti. Perché così se manca qualcuno sono sicuro che sono a portarcela a fare, soprattutto con i centravanti, perché quelli che partono sempre sono i centravanti. E quindi adesso andiamo a Chiesi, mi manca Marco che è bravissimo come centravanti, c'è Pietro Corso e poi vabbè, vediamo un po'. Ok dai, facciamo girare comunque, tiriamo a campare che poi serve a succedere bene. Che tutte le espulsioni e tutte le a fine campionato delle parti di pagare. La coppa di disciplina non ha biglietti di San Luna, eh? Ok, lasciamo girare, vediamo un po' la Benito e poi. Ah, prima Falchetto si è rientrata, vai Falchetto. Scusa, vai Benito. Ehi, anche io me la volevo fare una cosa di calcio. In Bologna non so vendendo, mi interessa. L'Inter sorprendente, c'è che schifo che ha fatto oggi, che se non ho capito io l'italiano cosa pensa di va, fatto c'è uno squadrone, non riescono a esplodere, anche oggi ha perso, vabbè la Juve ha vinto fuori casa, vabbè, adesso mi ha dato bene, l'Atti ha pareggiato oggi, quindi siamo terzi, adesso c'è, chi c'è stasera? Napoli. Un grandissimo spogliatoio secondo me, perché il Milan sta crescendo dove quindi sono i suoi giochi di gambe, di acrobazie, e va bene così. Per il resto, il campionato è ancora lungo, bisogna vedere cosa ne esce. Ma che tutte le più fredde, Giallo? Sì, non si sente. appoggerà la sola in cuffia al settore sta spingendo, già Roberto, ce l'ho uno. Ok, allora Giuseppe si era allontanato, Antonio non so che fine ha fatto, si è caduto alla cadrea, Sandro si è allontanato, c'è gente a venire i primi. Facciamo qua, sto guardando quello che mi serve e quello che non mi serve, se vuoi prendere una buccia. Puoi venire, anch'io già hai visto, non sai, quando sei venuto tu c'è la roba, ci mancava. Erano tutti sopra, uno sopra l'altro, non va bene. Mi ho dato disposizioni a Giulio di farmi l'altro soppalco, di farmi l'altro pezzo e iniziamo a rimettere le radio come devono andare. Anche qua tutti i baracchini, tre cose, mi sposto il computer, lo metto in traverso, la tappate. Molto probabilmente mi uso la tastierina piccolina, no? Non lo so, vediamo. Vediamo, sto sempre cambiando e facendo. E adesso voglio fare l'altro pezzo e poi le faccio tutti gli scompartimenti. Tutti gli scompartimenti, se no veste un casino. Va bene. Ok, vediamo se c'è Falchetto. Falche. Antonio. Tutto è Antonio, riprendi Robè. Guarda se c'è Giuseppe. Cioè, ci sei ancora? Ok, sto dicendo, Antonio, dove si dice si è trasferito per un annetto fa più o meno, forse anche più, su una zona alta, e dice se va a mettere la manta, va a partire tutto da capo, invece poi non ha fatto niente. Oh, vedi, c'era la manta, vedi, c'era. Ma è quella vecchia che ci aveva in campagna, capito? Fatto è toccato sì, un coso. Bastava dirmelo, io l'ho staccata da via Pascoli a Nuova Nuova, per non comprarne un'altra, per non metterla da parte, l'ho piazzata qua. Ma era Nuova Nuova, era un'antenna di 2 anni, capito? Perché l'altra è che l'avevo data a Luca. E quindi niente, ma l'avrei data a lui, quella lì, mai aver preso un'altra, non c'era problemi con Antonio. Invece per non metterla dentro la scatola, smontarla, eccetera, eccetera, vabbè, l'ho fatta, l'ho tutta smontata, pulita, quando metti vulcanizzante, le fascette in acciaio, non c'è problema, è tutto a posto. L'ho smontata, pulita, ripiazzata qua, va molto meglio, ho rimesso il cavo nuovo, giustamente, perché quello era corto. Però vi ho detto se ne servono pezzi, già ne ho io pezzi di Mantova. Già ce l'ha sì l'antenna. Ma perché non sta entrando? Non ha tempo o non gli ha fatto nulla? No, veramente non c'è radio. Adesso mica si è volato via la mia, mentre la sta riparando, facendoli queste cose, entra con quella lì. L'altro giorno è entrato, ce ne aveva una riparazione ed è entrato. Ma gli ho detto se ti serve una radio, ti rabbidi così la mia fatta me. Infatti adesso stiamo cercando del popolare, dai. C'era un periodo, un paio d'anni fa, veramente in basso nel contemporaneo, te lo ricordo, poi c'è stato un momento di stallo, poi qualcuno si è separato, eccetera, eccetera. Ma tutti non danno delle separazioni, una separazione c'è come un divorzio. Tutti sono utili, nessuno è indispensabile. Meglio solo che male accompagnato, dice il proverbio, quindi va bene così, non ti puoi lamentare, roba che non lì c'è sempre pieno di gente, eh? È sempre pieno, ma stasera eravamo in 8, c'era Alghero, Porto Torres, Sassari, va bene così, e tutti i giorni così, quindi, cosa vuoi di più, già va bene, poi chiaramente la gente, c'è quello che le piace modulare meno, c'è quello che le piace modulare di più, già lo vedi, noi ci alterniamo. 2 colpettini la mattina quando siamo liberi, la sera, quest'ora prima di cena. Va bene, l'importante è che ci sia sempre gente. Stamattina ho preso il caffè con Domenico. Lui mi ha detto la macchina, ma si muove da 2, tu mi hai detto, non so dove c'era quella macchina. Siamo tornati in Piazza dei Sini, caffè, 2 chiacchiere e poi ci siamo andati. Non lo conosco di personalmente, non credo di conoscerlo, di conoscerlo a Domenico, ho sentito da un po' di tempo, almeno 3-4 anni che lo conosco in radio, però di persona non credo di conoscerlo. E quello che volevo dire, ho visto stamattina eravamo tre con su a Monara a giocare, c'era una manta qua di lì, ma anche il nuovo baracchino c'era di lì tempo fa. Ma dove? A Monara. A Monara ce n'è più di uno, sono anche un paio di mattoni. Poi ce n'è uno, radioamatore dove è cosa? Torralba, c'è un radioamatore di lì. Torralba ce ne sono tre. Beh, c'è quello che conosco io bene, però quelli, diciamo, che la Torralba, di origine di Torralba c'è un'antenna, qualcosa. penso io quando vado in quelle zone, che fra un po' dovrò coprire un incarico in quelle zone, mi metto le bulle in macchina, c'ho già tutto pronto, metto il 275 nella ICOM con la frontale inesauribile, due al band, due U, e metto quello lì, capito? Grande rovere appresso, la mia antenna, la radio, senza avere la radio. Io per faccio avevo la radio, sì. Quando facevo il turno, avevo montato l'antenna, avevo montato, e quando ero di turno facevo o dalle sia alle 2 o dalle 2 alle 10, c'avevo la radio, certo. Allora, vabbè, ma ero fisso lì all'impianto, ero fisso lì all'impianto. Adesso invece con questo incarico dovrò fare un po' di zone particolari che sono quelle di quella zona che stai dicendo tu, capito? Quindi stando in giro mi metto la radio in macchina, tanto lavoriamo con i punti noi, quindi non c'è problema. Ciao, mi stavi dicendo qualcosa sulla Girana, dice che c'era un vecchio ponte lì, lì come andata a finire? Dismesso l'hanno, roba, dismesso. E lì dove c'era la centrale operativa della forestale, c'era un ponte ripetitore, c'è una parabola enorme, tarroginosa, tutta distrutta, e c'è ancora un'antenna, dovrebbe essere una log periodica, che è puntata proprio verso Porto Torres. Forse si usava per il ponte telefonico, quando ancora non c'era un telefono. Io ce n'ho una piccola di antenna, però non lo so, dice Vittore, la vuole attaccare al rotore, quella fa da 40 MHz a 600 MHz, una rompeuta, una di quelle onde libere che sta dicendo tu. L'unico problema è che c'ha le prese a 75 ohm, è una di quelle antenne più lunga, l'ho presa come TV, però la voglio usare in ricezione sull'ICOM. Vorrei riuscire a trovare qualcuno che sia in condizione di fare un adattamento, cioè mettergli un balumo o qualcosa del genere per portare a 52 ohm in presenza. Ci li ha usato gli adattatori da 75 a 52 ohm, Roberto, l'ho messo anche io, è una cannonata quella, io l'ho puntata a nord e va benissimo, sento il ripetitore della Corsica, sento tutto, ed è una log periodica proprio di quelle TV, è sotto il tubo della mantova, con un cavo di discesa 52 ohm normale, e va molto ma molto bene. Non ti crea problemi, la punti a nord e senti tutto. E la datore ce li ha 75-52 fusari. Vabbè, ce li ha. Non lo sapevo, non lo sapevo, se non te l'ho già preoccupato, perché non l'ho montata, però no, io la metto sul rotore dove c'è la direttiva, l'hai visto? C'è un pezzo di palo rimasto, di furi, e la metto sopra lì in modo che mi posso girare da tutte le parti. Ah sì, hai fatto il master un po' più lungo. E quindi ti puoi ancora le sopra, no, io no. L'ho messa proprio puntata verso la Girana, sento benissimo, si sente tutto, anche il ripetitore della Corsica, tutte le emittenti spagnole, sente tutto. Era giusto per avere un'antenna in più, ma adesso per quest'anno è andata così, ti ricordo ne ho altre due ancora a piazzare io, quindi il prossimo anno, come arrivo al periodo buono, e piazzo, c'ho quella da 11 metri e 75, che è quella della Ultra Beam, che è una 5 bande verticale, che è praticamente una direttiva verticale, c'ha tutti gli attacchi interni che si accordano man mano che tutti sposti di frequenza, capito? Avendo il control box giù, metti la frequenza, lo stilo si abbassa, si solleva ed è 11 metri e 75 con l'antenna. Senza palla devo piazzare, cazzo, se no ho legato la Girana. Questo è un po' salvato. Ok, mentre i filari non le sta più usando nessuno, bravo. Le filari, non beh, le filari ce l'ho anche io, ho la G5RV, però insomma, filare. Funzionano molto bene, secondo come le piatti, poi io in alto come sono a 42 metri da terra, perciò vedo la mia è proprio bassissima, la filare è a V invertita con la scaletta a 45 gradi ed è puntata anche quella a nord, ma sento il mondo, sento sorda, ma è 20 e 40 è allucinante, funziona molto bene, è che io non faccio molta attività, quindi se sento qualcuno mentre saluto, boh. Mentre invece in 10 metri uso la mantova, 10 metri come verticale la mantova, non ce n'è per nessuno. Sandro Tigre non c'è, ha detto c'aveva gente, Roberto riprendi, mi senti? Sì. una cosa, ma da dove stavamo parlando? Tu c'avevi un inoiz in base, Claudio? Ce l'ho ancora, c'ho anche il Zodiac base, il B5024, perché? No, no, sto scherzando, non li fate girare quelli apparati. Sì, ogni tanto li faccio girare. Poi vuoi sentire il Zodiac? Dimmi, comunque ti faccio sentire il Zodiac. Tanto il microfono è sempre lo stesso, non cambia. Questa è la KB23, tieni conto, mi adesso ma non importante, comodo, riprendi Anto. Ti faccio sentire Zodiac base 50-24, poi ti faccio sentire l'Inuit, ti faccio sentire il President, il Tornado, io c'ho 4006, c'ho Seas, cosa c'ho? C'ho il Jackson, già ce n'è Barracchi. Ma quanto vi viene il commutatore recente? No? Io ne ho una 4 più 3, 7. Ma dove l'hai trovato qua? No, ne ha giocato due, Robert, te l'ha già detto mentre ci invasi. Ne prendi due a 4, 2, c'è quello la ZG a 4, ne compri due di quello, li accoppi insieme e praticamente cosa fai? Fai il ponte d'ingresso sull'ingresso dell'antenna e poi mandi tutti gli spettroni alle radio. Usi praticamente quattro uscite, un ingresso doppio perché lo devi accoppiare con l'altro, 8 uscite. Ah, lo faccio anche io, non ci avevo pensato qua. Aspetta, vabbè, bisogna farlo, quando capiti me lo fai un pezzo di carta. Allora, l'ingresso dove entra il cavo d'antenna, lo unisco uno con l'altro, dei due cose, dei due commutatori, perché io ne ho anche un altro commutatore a 3 uscite. Esatto, poi domani passo e te lo faccio vedere. Faccio lo schema su un pezzo di carta, una strozzata. E fai il ponte, no, sull'ingresso di uno che va all'altro. Li accoppi assieme, io li ho praticamente saldati, li ho messo una fattuggia, ce ne hai materiale lì. Le metti dietro, non si vede, le metti un pezzettino di lamierino fine fine con due vite autofilattanti e poi lo attacchi al muro, no? Quindi non si vede. E risulta un commutatore grande a 4 commutazioni più 4, 8 commutazioni. Pensavo di ricaduto dalla sedia. No, no, no, no. telefono. K di Nocciolo, riprendete e fate girare, K, K. Oh, prese gli hai. Cazzo, non mi guio. Scusate, l'ho già usato la capsula lì. So quelli di gol, di stagno. Non lo so, lui mi ha detto quella più lunga è quella là, boh, e la forma anche l'altra, l'altra però ha detto è un po' più piccola. Beh, ha fatto il buon pugno, ok. Roberto e Claudio non ci sono. Eia. Cos'è? Ci siete? Sì, sì, no, stavo parlando con mia moglie, non c'è problema, già sono qua. Io quando vado via sono abituato a salutare e a dire sto chiudendo. No, a meno che non mi allontani un attimino, ma avviso sempre, mi sto allontanando due secondi. No, è entrata mia moglie a dirmi cose, quindi non avevo capito. No, io mi scuso, io ho detto, non so se avevi copiato, Clark, che ti stava scusando il telefono. Sì, ma l'ho detto io allora, che ti era allontanato un attimino per il telefono, no, non è per te, non tu stai scherzando. Ho detto per me, ho detto se chiudo mi allontano già avviso, dai, sono qua comunque, non c'è problema. Cosa hai detto, Benì? Cosa vuoi fare? Anche tu che cosa? Portamelo, te lo faccio io con l'accoppiamento. Ah, a me già mi basta, mi voglio portare solo, come ce l'avevo prima il baracchino, no? Però portando il commutatore attaccato da qua non me lo devo portare, il filo di là nell'altro tavolo, dove mi metto a saldare tutto, usare l'altro. Vabbè. Vabbè, e allora sì, si deve fare così esattamente. Ha cambiato, ha sostituito anche la prenderia. Oh, Claudio. pannello, ho controllato la calza, c'è la calza umida, tutto lì, quindi adesso vado con questo col media. E lo vedi che ho ragione io? Cosa vuoi? Va bene, ti ho comprato col capo, le dico grazie. Vabbè, non è questione di dire grazie a nessuno, purtroppo va, Sandro. Purtroppo può succedere in una partita di cavo, il cavo arriva una bobina da 100 metri, a 200 metri, ci può essere la macchina stessa che l'ha leggermente bucato o leggermente aperto e sai, nell'insieme a te ti è toccato quel pezzo, quei 20 metri dove c'è questo taglietto, ma in mille casi quando tu dentro casa hai il PL umido, ricordati sempre che l'acqua arriva da fuori, quindi arriva dal cavo, perciò c'è qualcosa che non va, quindi quel cavo è da sostituire immediatamente, rimettere il PL bene a posto e soprattutto vulcanizzare il PL intestato all'antenna. Capito? Vulcanizzarlo vuol dire chiuderlo completamente una volta che è avvitato, chiuderlo completamente. E poi vedere se c'è qualche, ma non credo comunque, in mille casi è sempre quello di problema, capito? Ok, no, mi si gira le palle, guarda, c'è una cosa allucinante, perché sono salito quando ero avanti ieri e adesso a fare tutto quel lavoro, guarda, mi smonta completamente, guarda, per carità. Comunque, mi ascolti con questo? Benissimo, non ci sono problemi, Sandro, che tra i problemi ti andavo benissimo. Ok, dai. Dammi un controllo segnale e modulazione. Allora, io ti sto ricevendo col baracchino, sei Santiago 9, Radio 5. Vabbè, come lo senti tu? Sì, Matteo, 9 e 5. Ok, dai, già va bene. Va bene, male che vada, se succede... Ma che è quello che 5? Questo, e non me ne frega niente, però tu mi sta smontando. Non ti deve smontare, Sandro, non ti deve smontare, purtroppo è così. Purtroppo è così. Tu immaginati io quando ho piazzato le antenne qua, 40 metri, che mi ho fatto il cavo di discesa, mai mi è successo, ho collegato tutto fatto, ho canalizzato i cavi, sono andato a accendere un HF e mi è andato un PL in corto di su, quindi ritirare su tutto il cavo, rifare il PL, rimontare tutto, rifare la discesa, ho perso una mattina per un PL, purtroppo può succedere, sono cose che succedono, non c'è problema, saldando mi è andato un filettino che non ho visto in mezzo tra il positivo e il negativo del PL e con lì che non c'era niente da fare, quindi sono dovuto risalire, riabbassare l'antenna, rifare il PL, eppure esperienza ne ho tantissima, però può capitare, non ti devi adirare per queste cose, ti è capitato il cavo sbagliato, si prende e si cambia, Sandro, piano piano. Già lo so, sono cose delicate, quindi una stronzata, guarda, intuisce al 1000%, però adesso voglio fare un altro lavoretto, così lo faccio più definitivamente, cazzo, adesso vedo un po' l'RG8, il 213, vedo poi in qualche modo di farlo scendere giù. Non so, da più freddo del formulato, da 16, glielo butto dentro, giusto per proteggere, non so, fare le prevenzioni più che possibile. Vabbè, bisogna farlo, in ogni caso bisogna farlo, vai, vabbè. Beh, ma anche nel 58 ci sono cavi e cavi, ho visto che certe volte ne ho cambiato su certi cose che non hanno la carta come se non esiste. Qui ci sono quelli con la carta fitta, quelli a nome militare, il 1000, il 58 1000, che è tutto diverso, c'ha l'isolante, la guaina bella grossa, è tutto diverso. Poi ci sono quelli che come li pieghi ti si deformano e l'animale può che sono quelle per le discese di Puri, è fatta. Capo, RG59, RG58, niente. Beh, io già ho messo il capo grosso, non è un problema. Cosa sta a fare? Non è male, lo sai, ma... Che ci avremmo volgolati, cazzo! Ministro, come stiamo? Chiara Carfagna, ce l'ho qua in televisione, bella carina. Legata al palo vuole quella, ha fatto un bel servizio, lo dico io. Ah, sì. Qui, io vuole farla capire. Vero, Antonio Falchè. Ehi, ehi, vuoi, non mi idea. Non fanno il calcestruzzo. E allora, la gettatina è quello, vedrai che è tutto sistemato. E allora, no, vedi. Non mi inizia, ma di mio duro. Allora. Quattro non li dai. E ti fai lucidare quel riccione. Non si. Che mano è? A te no. Ti spiacerebbe della Carfagna. E ma che a te no? Rapporti in campagna la Carfagna. A me piace la figlia. Oh, la figlia? È la vigna, no, campagna, la vigna. Oh, Benì, finito hai di pulire la tramondezza? Oh, che non siete così retto. No, adesso ho trovato, mio trovato, non è divulgato uno per volta. C'erano ventoline che te stavo cercando da tutte le parti, va già Udi. E le ventoline quando le vuoi me lo dici, c'è un amico io che le prende le ventoline. No, no, già una giù i noghi, già non ne ho bisogno di prendermele. A proposito, claro, nessuno conosce, devo pigliare la patente. Guarda, ti mando da un carissimo amico, vai a trovarlo a casa, a nome mio, e tu sei a posto. Domani c'è la patente. E dove l'avete sentito tutto lo scandalo della roba? Ma lo sai, tutti li conoscono, tutti, diciamo, quasi tutti, e poi me ne hanno detto altri che sono inquisiti, che non hanno nominato, ma gente che conosco bene bene. È uno schifo totale, cazzo, è uno schifo totale che si possa rovinare un ente pubblico come la motorizzazione per queste stronzate. Gli gani maniadori delle autoscuole, dei funzionari, degli esaminatori, ma perché non fai il tuo lavoro, cazzo? Non so cosa buona, sono contento di uno, quello che va a fitti, algo no, sì. Ehi, poverino, quello fra un po' gli hanno fatto un mese e mezzo, 2 mesi di vita, lo già. No, non parlo Sanna, parlo l'altro della motorizzazione io. Mamma mia, sono faccia di mezza. Quello a me è un assunto per la C, la prima volta mi aveva già fatto. Dice la frenata troppo lunga, ma dico, cioè tu vai un capo troppo lungo. Ciao Claudia, sto ascoltando, sto scassando un po' di bagno di quegli scaldini. E quello, lo sai che sta dicendo qua? A quello che andava la suocera, la GPC, lo sta dicendo me. Già lo so chi sta dicendo, perché l'idea. Il bello di quello lì, che quello era uno di quelli che si lamentava che stavano regolando le patenti, troppo facili gli esami, lui era un randaggio, peggio dell'altro. Dove si è partito dei compagni, ciao a tutti. Ciao, già mi capito. Mi hai sentito, ma fanno bene, hanno fatto bene, va bene. E non è finita, perché adesso stanno controllando gli altri, vedrai che fra un po' uscirono tutti gli altri nuovi. Ma quella cosa brutta, ci sono state fughe di notizie, c'è un maresciallo inquisito, un finanziere che era amico di un amico mio, un collega di un amico mio, lo stesso inquisito, allora invece dei Lantarini. La cosa più grave è che quelli che hanno preso le patenti in quell'anno verranno tutti richiamati e molto probabilmente succederà un casino di Gesù Cristo, perché c'è gente che ci sta lavorando con la patente. Capito? Io spero che non succeda una cosa del genere, perché se dovesse succedere, vi rendete conto che vengono ritirate tutte le patenti e rimandata la gente a rifare gli esami con magari età superiore, in univulgari veri, e molta gente rimane senza lavoro per colpa di questi imbecilli. E vabbè, tra, per gli imbecilli sono loro, invece che tu che hai pagato, burro, voleva fare anche attenti per queste cose qua, cioè tu hai pagato 1.000, 2.000, 3.000 euro per prenderti la patente, ma basta farla studiata che ti fa la cosa facile, per cui è giusto, io la patente me la sono studiata e meritata, penso tu lo stesso come la maggior parte, perché devi andare a pagare, tu mi fai la patente gratis. Vabbè, io mi sono presentato come privatista perché non è che guidavo senza patente, perciò ho solo studiato i quiz e mi sono presentato e sono andato alla prima senza nessun problema, però dico, sono d'accordo con te, queste cose succedono quando uno non ha la voglia di studiare o la capacità di farlo, capito? E quindi subentrano queste cose che sono veramente vergognose. Quindi dico, se magari un ragazzo che diceva sì, ho sbagliato, adesso vado e studio e me la riprendo, ma se sono persone grandi che a quell'era lì, in quegli anni lì, l'hanno presa per incursi perché non li bucavano i beni o perché non ce la facevano o per mille motivi, no? Perché in quelle situazioni lì deve subentrare molto la testa, o la vuoi una cosa o non la vuoi, se poi la vuoi perché pensi che te la possano regalare, come succede in tanti campi, allora stai sbagliando tu, ma se poi sei invogliato a fare una cosa, non ti preoccupare, io andai di là, dai, te la faccio prendere io, non studi neanche, cazzo ti invoglia, dici, ma poi ce li ho i soldi, dai, io dammi la patente, così non sto lì a perdere tempo. Quindi c'è il pro e il contro, è chiaro che c'è uno sbaglio reciproco delle persone che hanno fatto questa cosa, però è vero anche che chi ti ha invogliato a farla è un grandissimo eccetera eccetera, hai capito? Sì, ha detto benissimo, Franco, io gli do la colpa soprattutto di chi ti ha invogliato a fare questo discorso, ma male ti ha messo la cuccia, ha detto vieni, non ti preoccupare con noi, ti iscrivi da noi e ti faccio passare come quello che avevo qua vicino a me, già uno si voluto, non c'è bisogno di fare nomi, che è uno di quelli che ha proseguito, era un ex dipendente, ce ne sono altri due sotto ex dipendenti. Sono cose brutte, non lo succede. Il problema è che, per come hai detto, c'è gente che male sta lavorando già da qualche anno con questa patente, di colpo dico, beh, la patente tua viene revocata, devi rifare l'esame, come ti trovi in strada, perché molti camionisti o gente del genere. È giusto, cioè, qua c'è Benito che c'è la patente superiore e quindi ti può rispondere, ma io penso che invogliare una persona a fare una cosa dipende anche da te, perché se tu sei una persona corretta e tranquilla e siamo fermo un attimo, intanto io lo tiro a Napoli di là, perché già ci vogliono tanti soldi per prendere, più devo pagare anche a te per farmi da esaminatore, diciamo, senza frequentare, io ti dico no, perché voglio risparmiarmeli quei quattrini, ma c'è gente che evidentemente ne aveva in più, sono stati messi in mezzo e l'hanno fatto, capito? Onorevole Cibeli, quando l'hai presa tu la patente superiore, quanta gente c'era che magari aveva necessità di aiuto, aveva voglia di prenderla, di studiare, però aveva necessità di aiuto perché magari aveva una preparazione a livello elementare, quindi non istruito in una certa maniera, chiaramente doveva essere aiutato. Non è caso che per aiutarti tu mi devi pagare, no? Positivo. No, ma c'era anche altra gente che non riusciva a andare a studiare, magari la sapeva, però non riusciva ad andare a studiare, a frequentare, perché deve avere anche un corso di frequentazione lì. E allora dice, cazzo, io ho un travaglio per andare lì e cosa non lo bello, preferisco pagare, darti le cose, però continuo a lavorare. Quella che c'è gente tonta che non riusciva a prenderla perché era tonta. E quindi alla fine andava, ci pagava la patente. Torniamo allo stesso discorso che ho detto io, quindi una persona un po' interdetta che alla fin fine le serviva per lavorare, per andare avanti, per mandare avanti la famiglia, si è vista in difficoltà, dice beh c'ho questa opportunità, intanto girandomi voce neanche so contonto, perché lì subentra la persona, no? Dice tanto c'ho contonto, io prendo un accidente, metto a studiare, poi non mi ricordo, ci vado lì, mi torno a bocciare, perdo il lavoro, preferisco pagarla, visto che ho questa opportunità, preferisco pagarla e vado a lavorare tranquillo e sereno senza nessun problema. Cioè è un concetto sbagliato, per invogliare le persone a fare determinate cose, e bisogna stare anche attenti, sono quelle persone deboli e quelle meno deboli. Quindi quando tu trovi un debole che dice la prendo, intanto cassina futti, pendente gioco, ma non ha questo cucicuro wiki viraggio perché se vado mi crepano, e lì la possibilità è una sola, o paghi o se no patente non hai. Quindi queste persone che hanno invogliato, ribadisco, sono dei veri farabutti, perché hanno trovato gente debole e gente incapace a fare quello che dovevano fare, secondo me. Sì, così. perché c'era gente che ha detto 5, 6, 7 esami, non riusciva a passare, e quindi ha detto alla fine si è sbocciato anche 10 esami. 5 doveva passare la teoria, e ho già detto allora Vittorio me la fai io e la posso avere pagata, pagava di più, e se l'ha presa così, capito? Gaieste, dunque, è veramente uno schifo per la città di Sassari che nel 2010 si abbiano queste rotture, queste cose, soprattutto coinvolti enti pubblici e personaggi di grande spicco. Poi purtroppo tutto il mondo è paese, non c'è niente da fare. Avanti, Falché. Ribadisco che non succedono solo qua a Sassa, queste cose succedono dappertutto, sia nel Napoletano, sia nel Podolore, dappertutto, purtroppo, mondo che va, gente che truppi, e la truffa è dappertutto, e diciamo la truffa è lì all'angolo, e peggio per chi le fa queste cose, purtroppo la legge parla chiaro, bisogna studiare, è tutto lì il discorso. C'è Capri a riposo, avanti di Capri. Ora stava piazzando, non so che cosa, lo stradino che ci stava ascoltando, è entrato a salutarci, ha detto gente da roba. Perlomeno io ho capito così, E si conferma. Perché? Per l'altra patente come te? C'è Capri un baracchino che dico non mi piace più, che sento dei rumori sotto di modulazione, brutto. Cos'è Beni? Questo, per l'altra patente, no. C'era uno con noi, quando l'ho presa io, adesso mi devo rimettere a studiare perché c'ho il rinnovo di nuovo. Gli mancavano 4 mesi, Bannassini in pensione, ha dovuto rifare gli esami e cose perché a lui gli serviva per lavorare, no? Per finire il coso andasse in pensione, però la patente gli era scaduta. E si è dovuto rifare, studiare cose e tutto quanto. Per tutti così c'è sempre un pro e contro, Benigni. È così. Ma guarda che anche da noi, io quando ho fatto il concorso per entrare dove sono, c'era gente, il concorso era specificato, capito, per titoli ed esame. Io mi sono trovato ad avere colleghi che non avevano i titoli per partecipare a quello che hanno fatto, oppure non hanno fatto, non partecipato. Quindi siccome me ne sono accorto io che sono del mestiere, del campo, l'azienda la conosco tutta, ho visto 16 anni, se ne sono accorti anche gli altri esterni, capite? Tanto è vero che c'era qualcuno che aveva fatto ricorso, non gli hanno neanche accettato il ricorso, perché? Perché la cosa era già tutta programmata, dice se noi accettiamo il ricorso ci stiamo dando la zappa ai piedi, quindi facciamo finta che il ricorso non li abbiamo accettato, perché secondo lui gli esami sono giusti, invece non era così. Ehi, ma ti sto parlando dell'altra patente che ogni 5 anni scade, devo rifare tutto da capo. A questo qui gli mancavano 4 mesi ad andare in pensione, però lui 4 mesi doveva finire di guidare ancora, no? Solo che non c'era la patente, quelli là non lo potevano mettere in capannone, allora si è dovuto ristudiare di nuovo tutta la patente, la DR, e tornare a fare tutti gli esami. E non quella quasi a più, infatti l'abbiamo aiutato un po' noi. Normale se c'era così, è come un campo idea, no? E come Antonio rifà l'età che c'ha, metta un uomo di 60 anni, cazzo tutta la via fra da sa, vieni nei casi dal monte, cazzo di sicuro fra da sa faccia. E quante si cosa? C'è una persona anziana in tutti i campi, perché anche nel mio, in tutti i campi, va aiutato, va messo a fare cose un po' più omogenee rispetto ad un ragazzo di 30 anni, di 40 anni. Non puoi andare a fare ispezioni di condotta, andare tutta la lì, fare i campagni, camminetti, dopo battubo, poi se ci sono belli, te un uomo di 60 anni, preferisco mettere un ragazzino di 20 anni, no, io più o meno devo dare il tracudo, e parti, e controlli tutta questa linea se ci sono belli, te. E la stessa cosa è per tutti, no? Le persone grandi vanno aiutate, quindi se loro avessero detto va bene, allora devi prendere la patente, non ti preoccupare, per i quinti ti diamo una mano noi, vieni comunque frequenta, ma non cazzo darmi di là e te la dopo gratis, non sono cose da fare quelle, hanno fatto bene e vorrei che altre persone come quelle venissero castagnate, capito? Ehi, hey, positivo, ma qua è diverso da su in continente. In continente è quando vai a dare il coso, ti fanno un corso di aggiornamento, capito? Qua invece non scade e devi rifare l'esame base, e poi dall'esame base accedi a tutti gli altri che ci sono, cisterne, radioattivi, capito, esplosivi, tutte quelle cose lì. Infatti qua le scuole guide ci stanno sbocciando per il discorso dei rinnovi, perché vogliono che le fanno, quelle fanno fuori, cioè che li fanno il corso d'aggiornamento, pagano, fanno il corso d'aggiornamento, presentano il rapporto del corso d'aggiornamento e gli danno il rinnovo. Hai visto che fuori fanno così, invece qua no, qua se non passi quegli esami lì, dal base a tutti gli altri, hai messo, non c'è più la patente. Sì, perché quel discorso dell'ADR e la motorizzazione gli sta facendo fare quel discorso lì, non le scuole guida. Ma io non ho capito perché, di là non lo fanno questo, e qua lo fanno, lo guardate, sono meglio di noi che dà. Infatti io stavo parlando con una persona, mi stavano dicendo che siccome se ne devono pagare le ditte, infatti mi stavano dicendo che molto probabilmente, come sta facendo qualche ditta di autotrasporti qua in Sardegna, li stanno mandando fuori, pagano, gli fanno il corso di aggiornamento, le lo rinnovano e ritornano qua, e quindi qua rinnovi, alla fine non ne fanno più. È positivo, io lo so, c'è tanta gente che deve partire, gente che conosco, che se ne vanno fuori per fare questo corso aggiornamento, gli dice pago una giornata di lavoro e coso di lì, gli pago il vitto, l'alloggio, che neanche pure, perché parti la mattina e torni la sera, e ci perde, non ci perde tutti i soldi che ci sta perdendo facendolo qua. Io lo so, perché il discorso che facendo solo un corso di rinnovo, spendi di meno, invece loro così, a parte hai spenduto di più. E infatti dice, alla fine le hanno anche detto la motorizzazione, adesso li stiamo andando fuori, fanno il corso di ragionamento e voi qua non prendete più nulla. E buonanotte. Aspetta un secondo. Cambiato radio. Ho mutato la grande. Robe, ci è rientrato? Sì, no, ma devo solo commutare, non devo fare niente, anche io, già tutto collegato, no, non c'erano problemi. No, era un po' cacciolata questa cosa. Amico, l'altro giorno avevo fatto addirittura una trasmissione, finalmente una cosa seria, no? Corso dei vigili urbani a Napoli, presentati 2300 persone, neanche uno è passato, tutti bruciati, ma chi non riesce a cavare nei bidi. Che nel discorso adesso li ho sentito una di quelli dei vigili urbani, che parole li assumono, non gli fanno fare il corso, gli danno la pistola senza fare il corso e senza fare fatto nessun tipo di scuola per insegnarli a commissione un'arma, capito? E gli stavo dicendo non la fanno fare dopo, perché siccome ci vogliono soldi, quelle l'hanno fatto vedere, adesso c'è la notizia. Vai, rispondete, ho visto anch'io quello. Non lo so, in Italia purtroppo è fatta così. Conosco una persona che si ha preso due specializzazioni regalate senza mai aver fatto mai nulla, senza aver dato la tesina già pronta, senza fare esami e niente. E ha dato due lauree, due specializzazioni. Okay. E avanti, Bre. Ciao, buonasera a tutti, Falchetto, Claudio e l'altro amico che non ho sentito ancora nominativo. Stavo ascoltando un pochettino qua, anche dall'altra parte, siccome mi sono risospettito perché c'è il segnale di Claudio che mi arriva, volevo vedere se era problemi miei o che cosa qua. Come ti sto arrivando, sempre lo stesso oppure non ti alterà meno l'abbassamento di segnale? Ma l'hai sentito? Cosa si è allontanato, Claudio? Chi sei, Mauro? No, è Luca, sto portando. Non lo so, non ti posso dare conferma perché il tuo segnale non lo conosco. Qua sei Santiago 9 qualcosa di segnale. Dove stai modulando per darti qualche indicazione, vai? Dimmi un po'. Portatore. Sta nella portatore del segnale buono qua. Non so che cosa c'è di apparecchio, che potenza c'è. Comunque Santiago 9 è abbondante qua. 030, dai, dai giù. No, sta andando bene, niente da dire. Luca, abbiamo detto ti chiami tu? Sì. Non c'è niente con Sandro tu? Sì, lo conosco. No, ma non siete insieme, dico, non state modulando dallo stesso punto, c'avete più o meno lo stesso segnale. Sì, tra poco ci abitiamo vicini, in Italia saremo 200 metri. Ma che antenna c'hai tu? È una verticale, questa qua è una tipo romanzo, ma però è una... Un'antenna che fa gli 11:45. Ma la parte mia sta andando bene, il segnale è buono, dammi un controllo anche a me se vuoi per avere conferma. Tu sei un 5-7, 5-7 come sempre, perché mi sembra che questo qui era il tuo segnale di sempre con la tua radio. Manti l'altro amico che sentivo più bassino, chi era, Falchetto? Tu sei Falchetto? No, io sono Roberto qua, comunque ti saluto, non credo di aver mai modulato con te, non lo so, almeno non mi ricordo. Ti rilancio a Falchetto e poi vediamo se è rientrato Claudio. Avanti Falchetto e poi fai girare per Claudio. Ehi, capano, Luca le monotosse, il mio segnale com'era, buono? Il tuo segnale, se si ricordo bene, è sempre, diciamo così, la radio 5, la radio è molto buona. Il segnale è un po' passivo qui da me, ma può essere che c'è un problemino con l'antenna, infatti chiedeva a Claudio se la frequenza, che lui il segnale lo sa, bene o male, il mio segnale come arrivo, vedo un po' che se aveva notato qualche abbassamento, adesso pure si dipende proprio appunto da me. No, sono qua io, però il telefono mi stava ascoltando. Ciao Gianluca, ben ascoltato, il tuo segnale è sempre lo stesso, Santiago 8 qua. Santiago 8, Radio 5, non ci sono problemi. Grazie, fra. Però io che ti sento leggermente più basso. Ti sei abbassato di qualche Santiago, Da 9.20 in arrivarvi, 9 così, siamo, adesso non so quanto stai, diciamo, erogando di potenza. Adesso sei a 7, infatti, ma sicuramente giochi un minimo al tempo. Io, te, sei sempre uguale. Problemi io non ne ho, i watt sono sempre 50, il tuo segnale è sempre lo stesso qua, magari c'hai l'attenuatore inserito, prova a vedere, dai uno sguardo a quella radio, se non abbi qualcosa inserita, No, negativo, c'era aperto l'attenuatore spento, c'è il preamplificato anche acceso, filtro non ce n'è in questo qua, che tu conosci bene, ce l'ha anche lì davanti, che per radio. No, tutto normale, dai, allora può essere che mi sto ricordando male io, comunque la radio è perfetta, se passa per la solita. Va benissimo. Ok, va bene. Avanti, venite, prendi. Ehi, a positivo, Luca, anche la parte mia c'è sempre lo stesso, Buonasera comunque. Ciao, ciao, Falchetto. Tutto bene? Ehi, a Benito, non Falchetto. Benito, ma... Tutto bene, Benito? Ma tutto a posto, non lo so io se ti sta arrivando bene, se sta attrappando questa radio qualcosa, però tu sei sempre lo stesso, da come ti ho sentito la volta scorsa. No, Benito, tutto bene, come sempre, adesso mi ricordo il tuo segnale, se mi salta con 5, radio lo stesso 5, va benissimo. Benito arriva più basso di noi, Luca. Benito, no, tu arrivi leggermente più forte, tu sei con più positiva a 7. Ma lui è molto più vicino a te rispetto a noi, Benito, non so che antenna, magari l'antenna si è nascosta rispetto a te, però considerando le distanze lui ci prende almeno 5-6 km. Non può essere, io non so la zona proprio, può essere che tu magari sei più aperto, diciamo, più pulito verso di me, verso la mia direzione. Io sono zona stadio e sto uscendo adesso. E l'indicatore è 12, poco più di 10 watt importante. Fai benissimo. E prego, mi ascolti, cambio. Ciao, piccoletto, chi sei? Qua Mauro, BM, barra mobile. Ciao Mauro, allora, il Santiago praticamente, lo switcher non si muove, la radio è, ti capisco bene, meno male non c'è QRM, la radio è bassina, però ti levo. Aspetta che... No, appena più dentro, vediamo se cambia qualcosa. Sta passaggio, cerca una posizione un po' migliore. E mai che cosa utilizzi, Luca? Il palmare suo con il processore inserito adesso. Un palmarino normale, proprio quello della radio. No, è anche buona come forza di intensità, è molto, molto buona. Dai, pensavo fosse qualche altro tipo di microfono. Al mio ho quasi 9 più 5 in questo passaggio, la radio 5. Bene, bene, avanti Claudio. E adesso mi senti meglio? Sì, ma adesso sì, ha aumentato la radio, il segnale è rimasto com'era, la radio è aumentato un pochettino. Vabbè, sono più attento. zona, quindi non è che posso pretendere più di tanto. Non è una zona aperta e quindi penso che vada bene così. Beh, se sei proprio con l'antenna nell'auto sì che va bene. L'antenna c'ho una PLC 800, quindi centro capocchia, quindi più di questo non è che puoi fare. Se magari usi dei chivi e vai verso il Monte Rosello lì dove c'è il ponte. Lo so, e se mi sposto per il vano è normale che prendi di più. Quindi lì quella zona dovresti arrivare un po' meglio. Va bene, avanti un ciao. Ma me come mi ascolti Gianlu, guarda un po'. Hola. Vai, buttaci tutto. 6-7, speed a 7, dai, diciamo così. Con picchi a 7 e radio 5. Buttata qua, nuova picchi positivi. Di poco, poca roba, comunque. Sì, in positivo modulato. Luca. Se la più tutto dopo vicino, dite un rapido, al limite lo butti sotto la scala. Così domani mattina faccio che lo recupero. Luca, scusate un attimo. Se parliamo una volta, va bene, se no ci compagno una mazza e occhi. Anche chi cerca Luca. Sì, vabbè, ciao Luca, del Monte, Luca di Porcoltore se parlo. Guarda un pochettino adesso cosa succede. Ora. Ehi Luca, non te l'avevo riconosciuto. Gianluca si chiama, Gianluca. Gianluca, Roberto ti chiede il controllo, guardami questo passaggio. Ora. Cos'è? Mi sono andato sopra, cazzo, boh, si vuole un casino così, eh. Sto fare uno, so fare l'altro, boh. Allora, Lu, anche il tuo intervento stava parlando qui, ce l'hai provvisato già, bravo. Parlate una alla volta, è quello minativo, capito? Quando vi rilanciano le prendete, tutti con la schiaccia, l'hanno un controllo, mi dici chi c'è un controllo. Parlate una alla volta, Roberto riprendi e chiedi il controllo a Gianluca. Scusate un attimino, ora così diciamo le confusioni. Gianluca, guardami questo passaggio, ho sollevato un pochettino. 1, 2, 3, prova radio. Allora, sì. Allora, Robè, aspetta, sono ammazzo. Allora, Robè, mi sta arrivando Santiago di 7 con picchi positivi, radio 5 qua. Quindi non cambia niente da così, che questa è la mia solita potenza, questo... Aspetta, la mia solita è questa qui. Ok, questo passaggio, questo è... Rispetto a prima. Tu ti sei ammazzato prima? Sì, sì, no, naturalmente sono ammazzato. Ok, quindi questo passaggio quanto arrivo così? Caccia senza modulare? Allora, adesso qui siamo a 5, il segnale. È abbassato potenza? No, quella che avevo prima, sino a pochi minuti fa, pochi secondi fa, ho sollevato. Cioè, il passaggio 1 è questo, e questo è l'altro. Più forte, quello sei a 5, se moduli te ne va a 6, questo qua, da 6 te ne vai a 7-8 quasi. Quasi a picchi a 8 arrivi con la modulazione, quest'ultimo. Torniamo tutto normale, no, volevo fare solo se stavo andando giocato. Ok, scusate, retrovisione, riprendi Luca del Monte per far girare pure. Per confronto non è che cioè, siamo lì, dai, più o meno roba di segnale. Io sto andando con. Una quarantina circa, neanche. Allora, Claudio. Sì, dimmi. Claudio, questa radio quanto va in AM, te lo ricordi? 25 watt, 30 watt, non di più. Ecco, io sono al massimo allora, No, giusto per intenderci, per sapere l'erogazione dei watt. Allora, il watt che dice Claudio stiamo erogando. Però Claudio, spiegami una cosa, io con lo sniper è giusto che me ne vado 920, 940 modulati? Sì, sì, quello è il modulatore, c'è un buon modulatore quella, lo IAS. Però i watt di erogazione sono intorno ai 25-30. Io infatti quello lì l'ho messo sotto strumento proprio per regolarmi, capito? A meno che quella sia leggermente toccata come quella di Sandro. Quella di Sandro ad esempio aveva 50 modulati, ne aveva una cinquantina. Se superi, se l'aumenti ancora poi va negativo, capito? Tutto qua. C'è anche Falchetto e Benito, fate girare. Beh, io saluto a tutti. Chiudo e ci sentiamo o più tardi o nei prossimi domani. Oh Claudio, quando finisce domani? Domani? Domani non sai che sono lui. E io che non ci sentiamo domani sera, ma ci aggiorniamo quando vorrei sera, che ci sentiamo per telefono prima, dai. Ok. Buonasera a tutti, buon proseguimento, alle prossime. Cappa, riprendo io, saluto le Mauro, io vado a fare carica batterie. Tutta dopo se coincide, se no ritenetevi tutti super salutati. Falchetto, guerretti, momentaneo. Ciao ciao. Ciao Falchetto, ciao Mauro, dai. Io sto un secondino con l'orecchio a mille cose, apparato l'orecchio, sto sentendo cosa ha fatto l'altro, se ce lo dicono, sto ascoltando TG regionale. Parlate voi, io tra qualche secondo riprendo. Ciao Falchetto, riprendo io. Ciao Mauro. Ok. Ok, riprendo io allora. Ciao Mauro, alle prossime. Comunque io sono a Sassari domani, Non sono là, capito? Ho ancora qualcosa da fare qua a Sassari, quindi sono a Gotta. Sentiamoci una mattina, al limite. Se è possibile vederci, ci vediamo, sono pazienza. Ok, ciao Antonio, buona cena, buon tutto, ci sentiamo dopo, se coincide, se no a domani. Avanti, Gianluca di Porotorsi. Ascolta, tu c'hai qualche problema in quella macchina? Io ti perdo, non ho capito perché mi buco, te ne vai a zero. E allora quella zona è proprio negativa, ma non ero primo che intendo da via La Marmora, tanto ci abitava Tonino, via La Marmora alle via 9.30, no? E tu sei Santiago 4. Beh, già lui è toccato. Da lui. faccio la male che corro, mi dato il progetto del pigiama, 23 gradi ci sono, 24 fra poco, 23.8, vediamo se riesco a andare per acceso qua, una pacchia di inverno, una pacchia, l'estate è molto fresca, molto ventilata, acqua, c'è tutte le zanzariere, per si stava a Dio, l'estate, cioè d'inverno, la mano che corti, vabbè stavo anche su quando la loro piano la mano che corti, quindi qua siamo ancora più in basso, c'è sempre più caldo. Gianlu, Gianlu che ha attaccato tutto a me, invece non ti sento niente, qua c'è un volume a zero, ecco qua, nel caso, dimmi. Allora, io ho un potenziometro lì, però che non c'è pomellino, è bianco, devi mettere qualche punta di cacciavite dentro a girarlo. No, no, no, lascialo stare quello lì, lascialo, quello non lo toccare mai, quello è l'autocontrollo del box, non lo toccare. Ti ho detto, perlomeno questo c'ha un potenziometro piccolino, piccolino, nero, che gira, ed è, la gente va in terra, un docco e uno lì, due nomi. Eccolo qua, esatto, è sotto l'attacco del BL, capito? Sotto l'attacco del BL, Gianlu, sotto l'attacco del BL, dietro. Controllo. Il trimmer bianco lascialo stare, quello è un'altra cosa. Andiamo per passi. Potenziometro un tattino, sai? Il tattino lascialo, poi c'è un potenziometro piccolino, nero, potenziometro proprio, d'occhi, gulivi di Eduira, è un potenziometro quello, che sporge poco, sporge poco. Allora io ho praticamente qua, quello bianco, se tu metto non toccarlo, risulterebbe a fianco allora? E io adesso la radio non ce l'ho girata dietro, no? Lo prendi col dito, esatto, esatto, guarda è proprio sotto, sotto, al piede in fondo, giù in fondo, a fianco, ecco dovrebbe essere a fianco quell'affarino lì, a sinistra però mi davanti a te, la radio ce l'hai davanti, o vedrai i radar di guru, vedrai gira a sinistra mi, a sinistra, quindi se tu ce l'hai girata dall'altra parte quel pulsante è a destra, dove ce l'attacco il PL. Vorrei, ma forse qua mi manca la manopolina. Ecco, ti manca la manopolina, no, Gianlu, però quel potenziometro è con la radio davanti, davanti, non girata, è davanti, col frontale davanti, quindi col VFO davanti, è a sinistra proprio sotto, sotto, rimane leggermente spostato, sotto l'attacco del PL, quello lì serve per lo smitter, ricezione e trasmissione, capito Gianlu? Gli altri devo avere lo schema perché gli altri non li ho toccati, ma non ho toccato neanche quello lì, però stavo leggendo lo schema e indica tutte quelle cose lì, c'è scritto comunque se c'è il manuale di istruzione cosa servono quei pomellini che ci sono dietro. Perché non vorrei che lì sia andata appesa la manopolina, allora la devo levare da una parte per poter girare, oppure appunto mettere una punta di cacciavitine e girare, perché c'è la crocetta all'interno. Sì, c'è la crocetta dell'innesto del pomellino, sì. Però assicurati che sia quello il pomellino. Ti ripeto, è sotto, spostato leggermente verso destra, dove c'è l'attacco dell'antenna, dove tu inserisci il PL dell'antenna, lì è. Sì, allora guarda, se mi confermi questo, se tu puoi un attimino verificare così toccando, lì prima della linea, della striscia dove ci sono proprio quei pomellini, mi sembra che siano 4-5, c'è un tastino che entra e esce, quello dovrebbe essere la portante. Esatto, sotto quel tastino c'è quel potenziometro. Capito. Sono rientrato io. Lo sto toccando, quindi è così, dai, avanti Robe. Chi è che voleva un controllo? Non ho capito, ho sentito uno, mi dai un controllo, chi è? No, dipende Robe. Ti è arrivato, dato il risultato 2-0 con la prima classifica, sono contento, dai. La Dinamo ha perso, mi dispiace di quella. Ok, chi è arrivato? Gianluca, quello che stava parlando adesso, se non sbaglio, tu, poi chi c'è? C'è Luca, non lo so. sei qua o se sei spostato? Ma sono qua, crack. Ma c'hanno la stessa radio, Sandro e Gianluca da Portotopes? No, Gianluca c'ha la stessa radio che c'ho io, il 757GX2. Perché è leggermente migliore come radio rispetto a quell'altro, ma sono la stessa marca però. Sì, ma uno c'ha un modello di 20 anni fa e l'altro c'ha un modello nuovo, capito? Tutto lì. No, 757 è una signora radio, non c'è problema. Non c'è problema, va molto bene. Se è tenuta bene, è chiaro, se poi è scacciavettata, toccata, va tutta allineata, eccetera. Io ci ho perso più di un mese per allinearla, per farla, per avere poi quelle caratteristiche su quel microfono, vabbè. Ma quando me l'ha portata a Sassa di Sandro era in pessime condizioni. L'ho tutta allineata, messa a posto e adesso già funziona bene. Questa è la stessa adesso, cos'è? Questo è il 430 con l'MC60. Sì, andare bene, è un'altra musica. Ok, avanti Luca, riprenditela. No, qua assomiglia un po' a quella là, no, la famosa VHS, la famosa. Quale, questa? Come dici tu, con Gianluca, ci assomiglia un po' a quella là. Si assomiglia un po' a quella là. Ma la 757 si assomiglia a che cosa? Con VHS la base. Ah, beh. 271, come l'hai fatto vedere tu? Passa. E si era una linea un po' copiata anche con la sistemazione dei tasti delle cose. Infatti, non me ne ero accorto. Però per quella la rimane più alta, ma 757 è una signora radio. Ripeto, se è tenuta in ottime condizioni, non si tocca all'interno, ma tutti le vecchie radio bisogna lasciarle come devono essere, sì, io. A una oggi gli ho dato, Antonio, per il conto a quella si porta via quel 140 che ho preso da Luca Flipper, che vuole tutto allineato lo stesso, capito? Perché una volta ci metti dentro le mani, caro mio, se non c'è l'oscillatore in frequenza, ma è agio e tua pulizia, capisci che stai facendo del bene, stai facendo solo del male. Eh sì, ascolta, guarda che l'altro giorno mi ha contattato, insomma là sono dei problemi perché l'ho fatto la cataratta, sto qua, mi ha detto che ha un amplificatore da regalarmi, la pappa che riesce a liberarsi un po', mi manda il cavetto della radio, no? E poi l'amplificatore. Il cavetto della radio, ma quello che ci serviva a noi? Non lo serve a te. Vabbè, tanto ho fatto la modifica, però è sempre utile quel cavetto, sempre sempre. Infatti l'amplificatore, se è un amplificatore VHF o se è un amplificatore HF, quando lo senti. Ehi, guarda, non mi dici tu, non mi dici tu cosa mi interessa. Insomma, che l'HF, VHF, non mi ricordo, lo volevo chiedere. Non lo senta adesso, la tua penitola di vostra nuda. Ma la roba che paghi su qua, solo non è svende, non è svende. No, non è svende, capito? Vabbè, se non è svende è un casino. No, se è VHF si può attaccare sempre al 271, no? A quello base monobanda. Perché quello da 25 watt in V. Mentre manda la terra da 50. Quindi si può attaccare lì e farlo andare magari con 100 watt o 200 watt, quello che è. Se invece è un amplificatore HF si può attaccare anche al col cavetto, si può attaccare anche gli HF che c'ho io, c'è tu, non c'è problema. E una prova gliela avremo comunque, no? Quando lo senti lì glielo a vedere. Se è VHF o HF il corso. Non ce l'ho accorto. Se lo mettete nel divano, non è che non è tratto, non lo dava. Il 357 è un apparato veicolare, Claudio, o grande tipo 140 o 440? È grande come il 440, c'è un dissipatore più grande del 440, è 0,30 con entra conversioni come il 440, non c'è l'accordatore suo è esterno come la T250. c'avevi 920 mi pare pure della Kenwood, o cosa c'avevi? 920 della IAEA, sì, l'ho venduto quando ho preso le unità separate. No, 920, scusa, 940 volevo dire. Sì, sì, 940, tutti gli avuti della Kenwood. Tutti della IAESO, quattro valvolari, a valvole, il 101, 102, il 101 ZD, il 101 digital. E poi, vabbè, tutti quelli anche me li ho avuti, già, quando vieni qua le vedi, sono delle foto anche. Ma il 940 non è un apparato, va. Gli apparati che vanno bene, 27, io continuo a dirlo sempre, segnatevelo per tutta la vita, sono il 140, il 680, il 430, il 440. Tutte le altre varie 27 vogliono sempre, hanno sempre inferiorità, non c'è niente da fare, anche il 757, con tutti gli abbinamenti che puoi farli, vedi, ho avuto un po' di fortuna col microfono, però come ricezione, come trasmissione, come capacità del radio è sempre inferiore al Kenwood di quell'era, e io parlo sempre dell'era, quindi degli anni dove si combatteva con quelle radio HF, adesso non esistono neanche più. E vabbè, ricezione 940 già era spettacolare. Ma per fare attività amatoriale, non di certo per parlare 27. 27 non aveva niente a che fare. Però bellissimo, bella radio, esteticamente è spettacolare. Chi è che vuole entrare col fischio? Addirittura. Ah, Sandro, stai raccordando? Addirittura ti ho entrato con un fischio. Con le scuse. Sto raccordando, dai. No, io non ho sentito fischi già lui. E beh, l'hai educato questo bussante, cosa hai risolto? No, Sandro, Claudio, non ho toccato, domani con la luce lo voglio levare, lo voglio mettere sul tavolino qua, prendere lo schema che c'ho dentro, conservato dentro dove sono tutti quanti i manuali di istruzione delle radio, e vedere un po' così almeno se trovo un'altra manopolina che si addice di un'altra radietto che gliela posso mettere, che se no tocca farla leggermente col cacciavitino, capito? Sì, sì, ma quella manopolina lì serve solo per lo strumento, per dare la sensibilità allo strumento, capito? La IAI ce le facciamo le stenne queste cose. Ok, va bene. Beh, signori, io vi saluto perché vado a cenare. Se ci siete, ci sentiamo dopo, e altrimenti vi auguro a tutti il buon fine domenicale. Buon inizio settimana per domani a tutti. Se coincide, a dopo. Altrimenti ritenetevi tutti salutati. Ciao Luca, di Sassari, Gianluca, Benito, Roberto, Falchetto e chiunque fosse all'ascolto sul canale 10. Ciao a tutti e alle prossime. Avanti Benito. Anche io, stavo aspettando che finissi. Ciao Luca, ciao Roberto, ciao Gianluca, ciao Sandro, anche tu, ha chiuso. Ciao a tutti quanti, scusate se me ne ho dimenticato qualcuno, corriti per me. Allora, riprendo io da così. Allora, ciao Claudio, buona cena anche a te, Benito, Falchetto non ho sentito, salto via. Comunque io lo stesso, no, io rimango qua anche un pochettino, sto aspettando se appena è pronto e dopo risuono qua, io ho capito Claudio, se vuoi chiamare io sono qua. Ok, dai, vediamo se coincide, guardo un po' di sport, comunque già le radio non le spengo mai, le spengo solo quando vado a dormire, perché anche se non voglio entrare, se c'è gente che parla mi piace anche ascoltare. Ok, ci sentiamo allora semmai dopo, buona fine serata a tutti, dimmi Roberto. Vabbè, io devo chiudere lo stesso motivo di Claudio degli altri per andare a mangiare. No Claudio, se ti capita quando c'è 5 minuti di tempo mi fai quello schemino di collegamento di prima di fare l'anno di quei commutatori. Quando c'è un attimino di tempo me lo fai vedere. Ci passo domani, la prossima a quell'otto, non c'è problema. Ci passo e te lo faccio vedere come l'ho fatto io, così ti fai l'accoppiamento. Vabbè, anche che fartelo 8 te lo fai a 6, sempre meglio di 3, ne hai 3 in più. Vabbè, già ne parliamo con calma. Ok, di nuovo ciao a tutti, non mi ricordo esattamente chi c'è, comunque cuoretti da parte mia per motivi di mangiare, dai. Ok, non so se riattacco dopo, sono tutti salutati, buona giornata per domani e buon tutto. Ciao ciao, cuoretti da parte di Roberto. Un attimo, Claudio, se ci sei. Sì. Vedi un po', ha cambiato qualcosa? situazione è molto più bella. Come segnale? Segnale 695. Va bene, ok, lasciamo così, dai. Va bene, dai, ciao a tutti, vado a cenare, a dopo, ciao ciao. Ciao a tutti e buona sera, più tardi, ciao, ciao, alla prossima. Ciao. Ciao Claudio. Poi a... Aspetta che cosa fa, saluto qua i miei 23 gli amici. Anche Roberto sarà lui, eh? Roberto? Sì, anche Roberto è andato via, giorno. Io sono pure Roberto, c'è ancora. Ce l'hai ancora accesa la radio. Allora, stavi provando Sandro, che cosa? No, stavo provando qua il coso, quello. Il Midland. L'omologato, dai. QRT per papà, ciao Lucaria. Ciao, vabbè Lucaria, qua ascolto, ragazzi, sto cucinando un po' di serpiente, l'ho pescato io. Andava, la canna? La canna, la pesca le calamari, ma ci sono attaccate le scinte. Sono male, eh? Andavano per la stessa, facciano i fisilli, al sugo. Sono buoni, sono buoni, tutto è buono, capito? Ciò che viene dal mare è buono, tranquillo, sale le alghe e la brisa. Tutto è anche gli amici di Porto Torres, sperando che mi ascoltino qua, piccolo e nero, come sta di vero. Quello che è vero, tutto è buono, non è che la brisa la... la cosa si chiama la... ma... la guarda un nome. Mi viene il nome, là, là, le alghe. Tutto è buono, ho detto, no? Cos'è? Il mare è la cosa più ricca al mondo. Tutto buono, mi pare, tutto buono. Ti ripeto, tranne le nevi, la brisa e le alghe, il resto è tutto buono. E si conferma. Vabbè, poi vabbè, molte cose volevo anche sapere cucinare, sono son buone, ma sapendolo cucinare tutto è buono, mi pare. Certo, lo buono è sapere cucinare anche, se come cucini non... non andala, compreso, non andala. Arroggero. Anda bene che andrà bene, aspettate una giratina veloce veloce. Sì. Positivo e capatoglie. Cazzo, Lucaria. 39, un bene burrugnere, da voi. A voi. E cazzo si di voi puoi fare un lino, lì un oggetto, ma non tenate. E niente, qua siamo Sabrica, ma poi sarà tu a fare le scusi, le seppie. No, Sono a Tugi. No, ieri notte, ieri sera. Che fai da venire? Sono via, boh. È 9:30. Su. E qua freddo ieri, Freddo, freddo, freddo. Ma sono andato via perché non stavano mangiando, capito? C'è una perturbazione in giro e anche loro sono predatori, capito? I calamari, le seppie, no? E non li andavo, non lo so, non ero disturbato, non stavano mangiando. Ma ci riproviamo magari pure domani, dopo domani, vediamo un po'. Prova, io non ce la credo, devo mettere a posto. Devo mettere a posto, faccio anche un cazzo, ma sì, no, ancora. C'ho le toccanali, c'ho tutto. Avevo burilli. Arroggero. Se entri la giornata giusta ne fai di calavali, Se mi sapevo uno, qui c'ho anche la, il flash, capito? Per non mi era la toccanala. Come? Che c'ho anche il flash, per non mi era la toccanala. Per farla diventare luminosa, i punti flash e pure rimane un bel po' illuminata in acqua. Capo di positivo e caparroggia. E com'è questo flash di la batteria? Vedi. Moto cosa? Ma la ragazza, la buona mi ritorno a Lanverde. Fare di Sandro. Di padre? Di Sandro. Non so se si chiama più Sandro, bu? Elettricista. Ehi, ehi. Fa molto la madre 10 giorni fa. Ehi, ehi, circa. Ma stima, 10 giorni, capo. Sì, sì, già lui. Vicino di Tarni. Ma quanti vicino le ha? Cioè, tipo, ce l'aveva mai visto? Uno che... scusi, è quella palla, è quella qua. K. Perdono. Ascolta, come è quanto arrivo di segnale con questa palla? Ecco. No, da 49,50. E quindi libero braghetta là. Questo qui è. C'è un fatto questa palizza. Che libero braghetta? Da 49,50 è un libero braghetta. Ma un altro, con le prese se già spinge più là. Beh, è normale, qua arrivi già a 9,60. Quasi 9,60, dai. Per i principi della base. Oh, la base lo sto qua. Via. Sa che con il cazzo ci metto a fare con i canali, già va bene. Ma si conferma, va bene, sì. A voglia. Ma il radio non mi passo oggi. Sai, no, no, vabbè, è un po' là, non mai ti capisco, non c'è problema. 1, 2, 3, 4, 5, cambio. Ma va bene la radio, Puglia. Le pari buchi, burro. Che regalo. Ci vuole mettere il microfono al tavolo qua, però mi serve un attacco con 5 buchi. Per fare la prolunghetta, capito? Dall'altra parte li metto qua a 4 e ci collego il microfono al tavolo a Puglia. Vedi un po' se questo qua si chiedeggia. Aspetta un attimino. Sto qua, devo metti un paracchino alla guerra. Che bello. Bene, bene. Ma di positivo è cavaloce. Che bello. A pompa. Pompa di pompa pompa. Va bene. Spinge che spinge. Ma non mi piace, non può mangiare. Poi c'è l'antuna selvatici, gli ho preso un peperoncino, olio d'oliva e le seppiette. E Mario? Sono Mario. Thank you. Sì. Adesso sì, stavo cercando l'alimentatore, anche io ho commutato l'alimentazione su un altro alimentatore, a tirare un po' di rugura, vedete. E dove siete andati il punto? Ragazzi. All'alimentatore, Sandro, per vedere un poco com'è. Era un parecchio tempo che non lo usavo. Sera leggi. genere in giro. Sì. Allora io ho portato un po' la propria cantare un po' la gente. Tiremole erano un centinaio, faremo una birba lì a me. C'erano giochette, vanno queste pennette, con le tutto fatto il cinghiale, quindi ho fatto. Dopo hanno portato questo vitello, hanno fatto il vitello al forno, tu devo vedere, guarda, croccante, buono, saporissimo. Un po' il forno di patate al forno, melanzane fatte al forno, fruia. Lì a Corso, come a Parenta, so che ci tengono, fanno delle belle festicciole, fanno. Sì, magari ci sarà stato anche Salvatore. Ma che essere, perché gente ce n'era, io ero lì a fare la serata, perché quando vogliamo organizzare, guarda, visto poi passare una cosa che si può fare tanto studiato, quindi sta come Claudio, Benavino, mi sa, fatto che sono io lì alla ripita del ristorante, organizziamo una sera dei minuti, rompiamo la tavolata, ci mangiamo una pizza, siamo tardiene. Sì, vabbè, se capita magari qualche sera, qualche fine settimana, vediamo un po', va. Va bene, Claudio. Claudio magari ancora magari non sta ancora scemando. Sandro, come te no? Prova. Sì. Arriva. Guarda che disturbi. Sto parlando in onda, mi senti? Ti recepi? Non mi stai entrando dentro. Santiago 7, Radio 2. Fai un passaggio che ti attenuo. Ascolta, questo c'è lo Smitter. Credi di Brinci. Ciao, va bene, dai. Siamo vicini, siamo benissimo. Prova a chiamare a Claudio a vedere. Si prova. Un'altra prova. Attenzione. Lascialo così. Sto facendo una prova, un secondino, sa. cosa stai combinando? Mamma mia, c'è il QRM quasi quasi ti supera. Metti l'antenna normale. No, quello si dai. Rifati a livello QRM. Matti. E chi è? Chi è questo bizzo? È mio. Io chi? Che non sono riuscito a registrarti. Ah, che sei sacro. No, non ci siamo. Aspetta un attimino. Tieni la parola fissa un attimino. Ho detto sì, Sandro. Ecco, adesso siamo normali. Chi sei? Antonio Falchetto. Eia, tu? Eia, ciao Antonio. Sì, c'è Sandro già. E beh, Sandro. Ma tu, ti sento basso di radio. Basso di radio, mi senti? Mi senti a me? Ma io ti sento. C'è Luca? Eia, Falchetto. Sì, ciao. Sandro, ti sento un po' basso. Oh, ma vai, mi senti basso sempre. No, c'avevo il volume basso io, dai. Ah, kappa. Allora Gianluca, con la sveglia? Sì, e a voglia. Ancora un bel po'. Cioè, più quando c'è gente che parla, a me fa piacere. Un po' qua, un po' la televisione, stavo guardando. Se uno entra, problemi non ce n'è. Kappa. Appanoglia. Previsione per domani? Pioggia? Non lo so, messo controllo. Ho messo di nuovo quell'alimentatore là. C'è questo cavolo di cose in mezzo ai piedi, ma guarda un poco. L'ho messo il tester digitale, sto controllando la corrente. Se c'è degli sbalzi, capito? O sa. Sbalzi di che cosa? No, ho attaccato l'alimentatore, l'ho messo sotto così, vabbè non sta scaldando perché adesso non c'è niente che sta facendo trasmettere. Però le ho messe puntali con il test per vedere un po' se sta mantenendo, diciamo, la corrente stabile, la corrente da 12, no? Siccome questa è regolabile, l'ho messo a 12 e vedo un po' quanto mi sta dando. Facendo 12,70, 12,80, 60, insomma, tra i 12 e i 13 sta andando. Tra i picchi negativi, Io adesso ho alzato un pochettino infatti, aspetta, Allora, scusate un secondo, abbasso un attimino la modulazione che provo a accordare. Allora. Che tempo fa domani? Ecco qua, sì, siamo accordati. Vediamo un poco come adesso, Sandro. Boh, fa un altro passaggio. Vedere un poco perché ho accordato, ero un po' in disaccordo. Boh, non lo so. Forse è migliorato qualcosa, boh. Tanto. Sì. Ok, dai. Signori belli, io vi mollo, domani è un inizio settimana, va bene, dai. Ma tu, se è il caso, ci sentiamo domani mattina, in mattinata. Ciao Antonio, ciao Gianlu, ci sentiamo alle prossime. Ciao Sandro. Buon ritiro a tutto e ci riascolta. Gappa, anche la profita. Ciao Gianluca, tutta la migliore, la prossima, il tempo non l'ha detto com'è per domani, ma presumo che piova, perché mi sa che ha messo pioggia fino a mercoledì. Comunque, va bene, aspetto fino a lì e chiudo anch'io, dai. E io, a domani allora, dai. buonanotte, buon tutto, buon inizio settimana. Kappa, buon inizio settimana anche a te, buon tutto, ciao Sabri, se si riascolta, buonanotte. Il tempo, visto vai? Come? Tempo, che tempo fa, domande sai? Mi sembra che Sandro stava dicendo che ha la pioggia. Kappa. Ok, ciao Gianluca, alle prossime, ciao. Ok, di nuovo, buonanotte.